Louis Thomas ha colto nel segno quando disse: la maggior parte delle persone ha il desiderio istintivo insaziabile e biologicamente determinato di rendersi utile. È sufficiente guardare l'espressione del volto di un bambino quando comincia a comprendere di poter essere utile al papà nei primi lavoretti. Impedendogli di aiutarlo, il padre gli farebbe un grande torto. In effetti, anche il dramma degli anziani è quello di sentirsi inutili. Spesso mia madre mi dona qualcosa ed io l'accetto, pur non avendone necessariamente bisogno. Nel ricevere, il mio gesto è volto a farla sentire utile. Per questo, ogni giorno mangio a casa sua, perché si sente fiera di preparare per suo figlio. Il giorno in cui non si sentirà più utile, sarà l'inizio di una vita senza senso. Un datore di lavoro aveva un'impiegata che spesso era disattenta e inoperosa, e la volle punire. Un giorno, finite le sue mansioni, la ragazza chiese al datore di lavoro che cosa potesse fare. «Non faccia nulla», fu la risposta. La ragazza era felice perché finalmente non lavorava, e per di più con l'approvazione del suo datore di lavoro. Il giorno dopo, la ragazza pose la stessa domanda e ricevette la stessa risposta. Era più che soddisfatta. Col passare del tempo, ricevendo sempre la stessa risposta, la ragazza cominciò ad annoiarsi e si rese conto d'essere inutile, di non valere niente. Ci fosse o no, non cambiava nulla per l'ufficio e il datore di lavoro. In seguito, dovette licenziarsi, perché il sentirsi inutile l'aveva uccisa moralmente. Molto probabilmente, l'esempio migliore di inutilità è il quinto passero, che veniva regalato al tempo di Gesù. Leggiamo nel Vangelo di Matteo: «E non temete coloro che uccidono il corpo, ma non possono uccidere l'anima. Temete piuttosto colui che può far perire l'anima e il corpo nella Geenna. Non si vendono forse due passeri per un soldo? Eppure neanche uno di loro cade a terra senza il volere del Padre vostro. Ma quanto a voi, perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi siete da più di molti passeri». Matt. 10:28-31. I sacrifici, prescritti dalla legge, consistevano spesso in animali. Chi aveva possibilità finanziarie doveva offrire animali di un certo valore, come pecore e buoi. Chi era tenuto a farlo, lo faceva con un conseguente senso d'orgoglio, d'autosoddisfazione. Chi invece era di modesta condizione, offriva animali di poco valore, tortore, colombe o, essendo proprio povero, dei passeri. L'entità dell'offerta rivelava indigenza ed era quindi un'umiliazione. L'offerta di un passero era pur sempre un'offerta, ma che si sarebbe voluto evitare, sia perché essa denunciava povertà, sia perché si sarebbe voluto offrire di più. Così, con la spesa di un soldo, l'offerente era in grado di offrire a Dio il suo sacrificio, consistente in due passeri. Era poco, ma quei due passeri servivano per il sacrificio ed erano utili. La loro morte giovava e aveva senso. Il loro sacrificio faceva parte del piano di Dio. Niente di più gratificante. Questi due passeri, dice Gesù, morivano per il volere di Dio. Non importa come si muore. L'importante è che la morte serva a qualcosa. Nulla di più demoralizzante del servire a nulla. Altrimenti, come per la ragazza, è meglio eclissarsi e sparire. Ma in merito ai sacrifici offerti a Dio, vi essi più. Leggiamo ancora nel Vangelo di Luca: cinque passeri non si vendono forse per due soldi? Eppure neanche uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anzi, persino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non temete dunque, voi valete più di molti passeri. Matt. 12:6-7. Luca ci rivela un altro particolare. Cinque passeri venivano venduti per due soldi. Facciamo i calcoli. Se due passeri venivano venduti per un soldo, è ovvio che quattro passeri avrebbero dovuto essere venduti per due soldi. Eppure, Luca ci dice che per due soldi si ricevevano cinque passeri, non quattro. Perché, come fanno tutti i commercianti, per incoraggiare l'acquisto della merce a volte regalano qualcosa. In caso di merce deperibile non vale la pena di conservarla a lungo perché sarebbe marcita. In caso di merce non deperibile, come ad esempio un paio di calze, la promozione può addursi al fatto che la merce sia fallata, non vendibile, o che si cerca di disfarsene. Così, al tempo di Gesù, chi comprava 4 passeri riceveva in più 1/5 passero, un passero che non era contato nella vendita, un passero che non aveva alcun valore, che non valeva la pena tenere. Forse il 1/5 passero aveva dei difetti, non era vendibile, non valeva proprio niente. N.I.E. Nuovo Testamento E. Tanto valeva regalarlo, perché valeva meno che niente. Un sentimento che ha sempre abitato e che abita tuttora nel mio cuore è che mi considero tra le persone il 1/5 passero. Già la mia nascita è significativa. Quando nacqui non c'era nessuno ad aspettarmi. Mio padre era malato in ospedale. Gli aspettava la notizia della nascita di una creatura. Mia madre, dopo la nascita di mia sorella, pensava di aver finito, ma la levatrice si accorse che vi era un altro essere inaspettato. Anche se ero amato, ero comunque arrivato al mondo indesiderato, non calcolato. La guerra, la fame, la seria e grave malattia di mio padre, che in seguito si rivelò mortale, frenavano la gioia riguardo ai parti multipli. Mi presentai quindi sulla scena di questo mondo come una vera sorpresa, inaspettato, provocando, comprensibilmente, nel cuore di mia madre, sentimenti contrastanti. Inoltre, non vi era in me il desiderio di vivere, non volevo succhiare il latte. La levatrice era preoccupata e, dopo avermi esaminato, cioè guardato in bocca per vedere se vi erano anomalie, non sapeva cosa pensare. La notizia venne alle orecchie di una religiosa, la quale pregò per questo essere indifeso. Ad un tratto, cominciai a nutrirmi da un'altra puerpera e, se ancora per molti anni sono stato inappetente, l'Eterno Dio mi mantenne in vita, perché l'uomo non vive soltanto di pane, ma vive di ogni parola che procede dalla bocca dell'Eterno. Dovevo vivere, Dio lo aveva stabilito, affinché io potessi conoscerlo. Molto probabilmente, l'eternità non basterà perché io possa manifestare la mia riconoscenza per aver conosciuto l'amore di Dio. Solo l'eternità è adeguata all'amore di Dio. In seguito ho vissuto gli anni più importanti per la formazione della mia personalità in un collegio. Un luogo dove la più grande preoccupazione è quella di studiare. Non ho imparato che per fare strada nella vita bisogna usare i gomiti, che per riuscire nei propri intenti occorre sapere presentare ogni cosa sotto un aspetto appetibile e seducente, che per avere ragione occorre solo saperla un po' più lunga. Come non ho imparato che, per essere accettati, basti usare la forma, che il denaro è considerato la cosa più importante dopo la vita, che per andare d'accordo con tutti bisogna non contraddire drasticamente nessuno, che l'importante non è sapere ma fingere di sapere, che ciò che serve per andare d'accordo è non di... Nel periodo della mia pubertà non ho assorbito tutto questo. Tale mancanza mi ha reso un uomo spigoloso per la società. Forse l'espressione più appropriata, piena d'umanità ed affetto, affibbiatami da una persona che mi vuole bene, è che io sia nato come un disturbo. Sì, la mia nascita è stata un disturbo improvviso. Un gemello, non ci voleva proprio. La mia personalità reca un disturbo, per chi non voglia mettersi in discussione e non desideri vedere in faccia la realtà. Non mi stupirei se anche la mia morte creasse un disturbo per alcuni. Per quanto a qualcuno possa sembrare incredibile, ho vissuto non so in quale mondo, privo di ciò di cui si nutre la società. Solo a 40 anni mi resi improvvisamente conto di come la gente potesse mentire e, verso i 50, ho detto la prima menzogna determinata e cosciente. Eravamo al mare. Mia moglie insisteva che io andasse ad informarmi quanto costasse una certa cosa. Ma sapendo che me lo chiedeva tanto per chiedere, e dato che per me era molto scomodo, le dissi che sarei andato, seppure dentro di me stavo dicendo di no. Fino a quel giorno avevo sempre affermato ciò che avevo nel cuore. Non avevo mai fatto promesse che non fossero corrispondenti alla mia volontà. Avevo sempre detto la verità come l'avevo nel cuore. S.L. 15, 2. La cosa a mia moglie interessava tanto poco che il giorno dopo, quando le dissi che non avevo fatto la commissione richiestami, mi confessò che non le interessava più di tanto. Per carità. Non sono un angelo, ma neppure un uomo dal comportamento malvagio. Non desidero nuocere a nessuno. Amo tutti gli esseri con le loro mancanze e oserei dire che amo anche i loro limiti perché suscitano in me tanta tenerezza. Vorrei che tutti fossero più felici di me, che avessero anche i doni che Dio mi ha dato. Ma questo per la società non è sufficiente. Occorre saper vivere, il savoir-faire. Un quinto passero, uno che non ha imparato i canoni della società, che non si accontenta della forma ma desidera la sostanza, che si comporta meno come disse qualcuno, meno come un elefante in una cristalliera, che disturba solo con la sua presenza, che viene amato e odiato con la stessa intensità. Cosa può valere? È vero che anche Gesù è stato una pietra d'inciampo. Impediva cioè alla gente di camminare serenamente e spensieratamente per la propria strada. Obbligava le persone a fare dei salti mortali per ciò che riguardava la morale, ma alla fine è stato crocifisso. Nonostante avesse fatto del bene a tutti, nonostante fosse la verità, era indesiderato, la società non lo riteneva utile, era un disturbo per la quiete pubblica. Bisognava eliminarlo, proprio perché non era utile. Non sono riflessioni fatte da un depresso, da un demoralizzato, da chi si compiange, da chi si autocommisera e si lecca le ferite. Io credo alla meravigliosa promessa che Dio si ricorda anche del quinto passero. Mentre il mondo è volto ad altri indirizzi, mentre tutti sono attirati da ciò che abbaglia, mentre ognuno pensa a se stesso e a ciò che è profittevole per lui come quinto passero, mi sento cercato, protetto, amato, appagato, valorizzato da Dio. E non è poco. Valorizzato. Prima di tutto perché Gesù Cristo è morto anche per i dimenticati e gli svalorizzati. Per quelli che sono niente meno che niente, di loro Dio non si è dimenticato. Inoltre, se considero sate, la mia vita è stata cosparsa di infinite benedizioni. Un proverbio di Dio, nel quale vedo riassunta un poco tutta la mia esistenza, cita: «È meglio essere poco stimato ma avere un servo, che essere onorato ma mancar di pane». PR 12:9. Essere stimati e valorizzati è un bene prezioso, al quale tutti tendiamo. Ma a cosa serve essere apprezzati, se poi si vive male? A cosa servono gli onori, quando nel profondo del tuo essere tu sei drasticamente solo? A cosa servono gli applausi, quando si convive con problematiche irrisolvibili? Per rispondere saggiamente a questi seri interrogativi, bisogna guardare in faccia alla realtà e a ciò che ci circonda. Leggevo in questi giorni su un giornale un raro commento onesto ed obiettivo in merito a 23 ritratti di donne celebri, di muse idolatrate, seduttrici senza limiti, amanti maltrattate e, comunque, bombe a orologeria in quanto a sentimenti e a carattere. Donne di successo, ammirate e invidiate dai mass media. Donne belle e famose. Donne che possiedono cultura, talento, sensibilità e passionalità. Hanno tutto. Successo, uomini, denaro, applausi. Sono scrittrici, poetesse, attrici, fotografe, cantanti, artiste. Le numero uno. Inseguono come un fuoco fatuo la felicità. Ridono in pubblico e piangono in privato. Sono percorse dall'inquietudine, torturate dall'ansia, aggredite dal male di vivere, depresse, disperate. Sono donne meravigliosamente infelici, hanno un'estrema sensibilità, non hanno problemi economici per vivere, non sono amate e non si amano. Sono femmine che hanno paura di affrontare se stesse. Le loro notti si fanno più cupe, le giornate sono in salita, l'esistenza priva di significato, un oceano di vuoto. Quando queste donne non riescono più a sorridere, passano all'alcol. Si intossicano di pastiglie, cercano di dimenticare con gli psicofarmaci. Alcol e droga diventano i loro demoni nascosti, anche se vivono da disperate, alcune convivono con il male oscuro. Altre, le più forti, vincono la loro battaglia, recuperando un certo rapporto con se stesse e gli altri. Donne famose, donne depresse. I dati sulla depressione non sono rassicuranti. Ne soffre una donna su sei. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lancia l'allarme. Nel giro di una decina di anni sarà la seconda causa di invalidità nel mondo sviluppata e declinata al femminile. Un quadro del genere, riferito a persone ritenute le più fortunate e felici del mondo, fa accapponare la pelle. E, meglio quindi che la gente abbia di te una bassa opinione, che non ti consideri, ti ritenga lo scarto della società o la spazzatura, ma che tu viva bene, non essendo schiavo delle circostanze, che tu ti senta servito nella vita. E, meglio essere dalla parte di chi sia poco stimato, o per niente notato, anche perché chi non ha stima verso un proprio simile diverso da se stesso, dimostra ad avere grandi problemi nella vita o una mente conforme a questo secolo malvagio. Se sei stimato o applaudito, può significare che tu sia come la maggior parte delle persone nelle quali si mostra una gioia che in realtà non esiste, come del resto sta scritto nel libro Saggio dei Proverbi. Anche nel riso il cuore può essere nell'afflizione e la gioia stessa può finire nel dolore. PR 14.13. Con una certa obiettività, certi uomini non hanno forse compreso che onori, gloria, applausi, fama terminano nel dolore. Eppure, la massa, si sa, tende a seguire questo fiume inquinato della vita. La vanità della vita, per loro, prevale sulla realtà. Seguono come esseri morti e amorfi l'andazzo di questo mondo. Solo i pesci vivi vanno controcorrente. Solo la vita ha il potere sulla morte. Un quadro di Picasso esposto in piazza, senza che ne sia rivelato l'autore, molto probabilmente provocherebbe indifferenza nella totalità delle persone. Adesso non verrebbe dato nessuno sguardo competente, nessun apprezzamento, nessun valore. Il disprezzo, più che rendere la mediocrità dello stesso oggetto disprezzato, spesso rende evidente la nullità o l'incompetenza della persona dal quale esso è stato espresso. Mi sento il quinto passero. Forse sono il quinto passero, ma un passero servito. E, per parafrasare il proverbio, che è meglio essere poco stimato ma avere un servo, che essere onorato ma mancar di pane, posso dire che preferisco essere il quinto passero servito, che essere importante e apprezzato dagli uomini e sentirmi privato, provare un marcato senso di indigenza, o non essere felice e appagato. Questa non è vita, ma solo una misera esistenza. La gioia del passero non è motivata dalle sue capacità, dalla sua bellezza o dal suo valore intrinseco, ma dall'essere utile, dall'essere contato. Sta scritto nel libro dell'Ecclesiaste che ciò che manca non si può contare, e ci una e un quarto. Perciò, se io sono con Nuovo Testamento, Antico Testamento o tenuto in considerazione da Dio al punto da offrirmi come una aggiunta, la mia entrata in questo mondo inaspettata e di disturbo ha valore. E con questo sentimento come passero canto a Dio ogni istante della mia esistenza. Ottobre 2009, Ellero.